sono uguali, però è molto più chiara, è più si vede meglio, capito? E si capisce che cosa c'è scritto. Così faccio quella modifica del VAT e la faccio uscire come si deve con l'apparecchio. Perché con microfonia va tutto bene, quello è perfetto. L'unica cosa è solo quel VAT devo fargli. Se non mi esce il tema con lineare, tu immaginati, io ho provato a lanciarli, li ho lanciati, ho schiacciato a porta, tac, cazzo mi ha lanciato, ho detto non puoi essere lineare, ma c'era roba quel patatino, e lineare saliva, io ho fatto male quel giorno che l'ho comprato, ma non rimanevo immediatamente indietro, guarda. Ho fatto veramente male, la prossima volta che compro un apparecchio da fuori, questa volta non mi faccio codare, questa volta controllo tutto, immediatamente col VAT, metto, se vedo che la cosa non va bene, dico ascolti, faccio la cosa, ecco, l'apparecchio me l'hanno nuovo indietro, metto un'aggiunta e mi danno un altro apparecchio diverso. Che è avanti? Vai lì, sarò bene. Non vorrei che fosse Claudio. Claudio, tu sei? Saltavo 9 più 5. Non dirmi no, guarda, speriamo di no, che ha fuso qualcosa un'altra volta, non lo so. Era un po' più basso del segnale solito suo, perché lui arriva a 9 più 10. Quindi quando parlavo io c'era la portante, c'è. Quando parlava? Parlavo io. No, però c'è questo rumore tu che si sente. Sembra che sei in una zona che c'è il vento e sei come un pacco di patatine che stai schiacciando le cose, la busta. Sì, senti questa allora, aspetta. Fu, ci sente questa specie di soffio. Un disco molto graffiato, sembra il rumore di un disco molto graffiato qua sulla stazione. Anche perché molto forte di audio e tende a saturarmi sicuramente qualche traccia che devo ancora regolare. Antonio, dal microfono, togli due punti di amplificazione, tre. Vediamo, perché tanto sei fortissimo di radio, ma non sei fortissimo di più, capito? Perciò se tu scendi rimani comunque molto più alto della media di radio, ma magari togliamo un po' di rumori. Guarda adesso, c'è una 4, guarda un po'. Sei molto forte, è un po' più chiaro, beh. Più o meno uguale, secondo me è tutto. O te lo stai tenendo troppo attaccato alla bocca, cos'è, da palmo o da palmo? Da palmo, da palmo. C'è anche la retina, figurati tu, un 2,6 e mente, 6 mil di song mic. Ma non sarà invece il PTT come lo muovi che rasca qualcosa, boh, che è troppo amplificato, che come lo muovi si sentono i rumori con le mani. Mi sembra strano, non è possibile. Non so che cazzo microfono mette lì adesso, perché ce l'ho tutti giù, ce li ho. Il salotto ce l'ho giù, l'altro cosa, il M24 l'ho venduto, vabbè, soprattutto di l'FM500S rotta Giuseppe, quindi non so cosa dirti. Domani mattina se cosa faccio, mi attacco il microfono normale dell'FM500S, mi aggancio su questo baracchino qua, vediamo come esce. Ora sei uscito perfetto, si sì, confermo perfetto, adesso se lasci così sei perfetto. Non ho fatto niente, non lo so. Ah, ma dopo non si è alimentato, che stavo per dire le palle, non lo so. Ma adesso ho attaccato. Ma satura quando attacchi ti abbassi un po' la radio, la modulazione. Ok, facciamo riprendere la Riccardino, avanti Riccardino. No, sta andando il 100%. Tu ti sei abbassato un pochettino invece di segnare Riccardino. Io mi sono abbassato. Sì. Cosa devo fare? Forse così meglio? No? Ma qualcosa sei, con il 43? Positivo, è caparrogero. Ti sei abbassato non quasi di 5 punti. Umidità? No. Quasi che sia l'umidità, non lo so. Non lo so, non so cosa dirti. È almeno che si cede un pochettino quando quando scalda con l'apparato perde un pochettino di potenza. Ok, dai, io adesso però, signori, vado via, sono un po' stanchino, anche se domani è domenica, voglio cercare di riposarmi bene stanotte se ci riesco. Ok, dai, sempre un piacere ascoltarvi, ciao Riccardino, ciao Fabio, ciao Antonello e eventuali portantisti, dai. Chiunque ci sia, salutoni, cuore ti da parte mia. Ciao, farò questo. Inizio di dire saluti io allora, sarebbe un piacere sentirti. Poi tra l'altro abbiamo anche il numero di telefono, se non altro io o il tuo. E niente, per spedirti la foto di un lavoretto che sto facendo, magari sentiamo domani mattina o domani sera in radio, e mentre parliamo ti mando la foto, anche perché sto abbastanza scendo di testa, vado via i fai, valvole, capito? Sto costruendo una cosa a valvole, un po' complicata. E comunque, buon corretti, buon tutto, buon riposo, ci vediamo domani magari con calma, e avanti Antonello per i saluti. Brecco un attimo. Avanti. Occafa, sono Bracco, da, sono entrato un attimo per salutarvi prima che facciate corretino comunque. Quindi saluto Roberto, Riccardino, Pomponio e Fabio. Fabio ci vediamo la prossima settimana eventualmente. Occafa, ragazzi, io entro e faccio quel ritiro contemporaneamente e vi saluto, buonanotte a tutti. Ciao Giovanni, ciao anche Roberto, mi fa piacere ascoltarti. Scappa Giovanni, buon collettivo, tutto, benvenuto, ben arrivato, buon collettivo e buon tutto, tutto in un attimo, ci sentiamo domani, vai Antonio. Via, ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime. Comunque ti butto tutto, Roberto sta andando via lo stesso, ciao Roberto anche a te, salutoni e buccoletti per stasera, Riccardino mi sembra già è qui ancora, quindi non c'è nessun problema, allora, oggi mi sento le gambe tutte a pizze, mi sento, fanculo a me. Anche Riccardino c'ha le gambe a pizze. Vero Riccardì, la vecchiaia Riccardì, vero? Sì, la vecchiaia si fa sentire. Come ti senti, vecchio Riccardì? Molto, me li sto portando. Povero Riccardino, Antonio, ma cosa ce la metti a fare? Guarda il povero Riccardo, anziano, Sì, era arrivata l'età che ho io, cosa vedo, Giulia, all'età sua mi facevo le stampate con la bici, ma stampate, sono in moto mi. Cos'è che facevi con la bici, Antonio? Una bella stampata, non cagata, una bella, capito? E poi bello, nell'asfalto inviamo signor Saba, guarda, ogni caduta te ne mangiava mezzo pezzo di cosa, di buccia, di ginocchio. Io lo vorrei proprio vedere Antonio di bicicletta. E tu Riccardo, i bici ne usi? Un po' di tutto, bici, qualche volta faccio da qui fino a Sassari, mi faccio un bel giro. Sì, sei a Sassari, che giro ti fai? Sono 7 km, faccio dalla campagna fino a Sassari e faccio quei 7 km all'andata e al ritorno 14 km. Vedi, così allora non è proprio poco poco, eh. Insomma, un bel giro te lo fai. Sì, è un bel giro. Cappa, quando inizia con 14 km non è proprio poco, già ne muovi un po' le gambe. Antone, ma perché anche tu non ti fai qualche giro in bicicletta? Ti fa bene, lì? Sì, la faccio a piccolo coso però, ma di andare in bicicletta per sicurezza. Faccio un'altra isolazione. Così almeno se ci rimango che qualcuno si avrebbe incannato, allora manco sono tranquillo. Antone, se fai la presentazione, non so più a dirti, no? Cioè, almeno il microfono ce lo metti per me, eh? E anche i pantaloni se vuoi. Se non mi stanno i pantaloni, il microfono almeno riesco a usarlo, i pantaloni magari non me li posso usare. No, oh, il pantalone della stampata mi sto parlando, te li conservo quelli. Il trofeo di come sei caduto, bella storia. Ricca, e tu? Adesso vediamo un pochino, ma non posso entrare in motorino, babbo vuole. No, non vuole. Guarda, lo capisco, non sai quanto. Io fino a 24 anni ho girato in moto, poi un giorno ho visto una videocassetta dove c'ero io in moto, mi sono spaventato e dal giorno sono più salito su una moto, non ti dico niente. Cose pericolose, però la moto no. La moto. Le altre cose ho sentito che fai cose anche particolari. Va bene con l'esperienza di Babbo, lui sicuramente avrà valutato, avrà visto e ha deciso che sei abbastanza responsabile. Il problema della moto non sei tu, sono gli altri, capito? Mentre quando tu sei su un paratindio, sai come comportarti, eccetera, dipende da te, sì, dal vento, da problemi che comunque puoi riuscire con l'esperienza e con attenzione, col cervello, a evitare. Invece in moto non è tutto in mano a te. La maggior parte delle cose, dei fattori che possono portarti un danno, vengono dagli altri, anche perché la gente guarda, cammina senza guardare per terra, capito? Guida col naso per aria, cioè se ti vengono addosso in macchina, semmai ti slovi un polso, se ti vengono addosso in moto, Riccardi, io ci sono stati in ospedale per la moto, non è una cosa carina, capito? Io proprio lo capisco, credimi. Babbo, 30 anni di volo è l'unica frattura che si è fatta in moto. Hai visto? Guarda, sembra che te l'abbia fatto apposta il discorso, come se lo sapessi, hai visto? È l'esperienza, lui dice così. Comunque, anche il parapendio sono quei matti che ti urlano la precedenza. Sì, vabbè, però insomma è un po' diverso. C'è meno traffico, ci sono meno imprevisti. Quando tu sei nel traffico in moto, in un'ora di punta, anche se stai andando piano, è un deficiente qualsiasi, ti piace la moto, ti schiaccia, capito? Diventi un poster, diventi, capito? E un moscerino contro un elefante fa sempre male. Purtroppo, anche se non ti prendono in pieno, basta che ti tocchino, arrivi per terra, con la moto sopra, ui, anche se la moto è leggera, tutto quello che vuoi. Io ne ho visto tutti i colori, io ne ho visto molte persone a fianco, in moto. Cioè, di tutto. Può accadere veramente l'imprevedibile. Mio padre è un po' forzato, ci ha provato, poi alla fine ha cambiato idea, ed è in giro in moto, solo che vedeva comunque una certa padronata nel mezzo, perché io sinceramente in moto guidavo molto bene, molto. E qualche volta ho avuto qualche incidente, ma per i chilometri che facevo, poi alla fine non era tanto. Però ho capito che o me lo toglievo dalla testa io, oppure non c'era niente da fare. La passione. Un giorno vedo la videocassetta, mi sono visto facendo una cosa con un DR. Ho detto no, io sono scemo. No, io domani mi vendo tutte le moto. Gli amici ridendo, oi, che tu non le prendere mai. Una mattina, altro mattino, e da lì, entro un mese le ho fatte tutte. Non si può. Hai fatto bene, c'era uno sotto chi è avanti, cioè prima fuscano e poi non entrano. Sì, sotto era, hai capito? Sotto, là, e ti ha un poco perso. Mica, aspetta che faccio la voce grossa, dov'è quel cacchio di coso? Mica attacco in lineare. Facevi al passo che tocca il tuo passo. Adesso faccio la voce grossa. Ui, e qual è il problema, Riccardi? Ma per spostarsi, se lo trovo a essere importante, pure c'è anche il telefono, vaffanculo. Meno male che la prendi con la giusta filosofia. Sta continuando a portarmi. No, si è calmato, ha sentito la tua voce tenebrosa e è scappato dalla paura. Così Riccardi ha capito che sono molto attrezzato, vero? Già ha capito che è attaccato il lineare da 2 kHz e lo spaccavi. Io spegnete baracchini, Da qualche parte, anzi in questo momento c'è un lineare grosso, è davanti alla porta di casa, è molto lontano da qui, però non fatemi sciogliere l'antenna che me l'hanno regalata e ci tengo, Allora portamelo qua che vediamo di provarlo. Com'è? Ho detto portamelo qua che vediamo di provarlo. Ehi, davvero, devo cambiare di vedere, non è il mio. Ho capito. Vabbè, buonasera. Ciao Tino. Ciao Alessio, a me. Allora, tu sì che mi camminetti. Il nervo non te lo cambio, non te lo calmo, Quello già lo so. Ogni mattina lo dico a Tiziana, tu sì che mi cambi il nervo, Tiziana, e lei, sì Ciccio, lo sai che ti voglio bene, mi fa. Ma io farò bravo, ciao Riccardì. Ciao Tino, benvenuto nel club degli insonni. Anche Fabio non scherza, non ha sonno oggi, Buonasera. Dimmi, lui, è inutile, entro io, entrano tutti. E allora, adesso sei tu quello che attira le folle. Certo che sì, ho la calamizza. No, non attira le folle, attira il folle, capito? Sei arrivato tu. Folle, sì. Vabbè, no, io ero in ascolto, ma stavo guardando Ciao Darby, dai, che è più importante, che mi interessa vedere i gradi di pista giusti, dai. Maledetto, la patatina, Comunque niente, dai, già, ho piazzato tutto, Bene uscito. Sì, devo solo dargli il grigio, ma solo mettermi in verità così, poi vediamo, se gli do il grigio e lo riporto bello, nuovo. E non potevi farlo prima, quella volta, dargli il grigio, poi mettevi i coppetti, se no li sporchi pure. No, non li sporco, gli metto la carta gommata, no, per quello non c'è problema, sono un artista. Va bene, scusa se mi sono permesso. No, anche perché non dico il mio lavoro, ma quasi. Sì, sono contento, un bel restauro, esce un nuovo uomo, mi fa piacere, è tutto il tipo di lavoro che mi piace. Io lo faccio su altre cose, su apparecchi magari per valvolare d'epoca, però quando sento che qualcuno fa tipo restauri per ricostruire apparati, eccetera, ma un po' capito. Anche io sono spruzzato. Ha detto. Ah, io so spruzzare con la vernice pitturo. Sono l'altro giorno che stavo facendo quel coperchio che ti ho detto. E mi hanno dato la bomboletta difettosa, scendevano lì luci di un incasso, dopo che l'ho fatto tutto quanto bene, per il bello litigato. Ma va a far nato, io ho detto. Vabbè, niente, adesso lo sto fare una coppiata con un CTE, un microfono CTE e un 747, quindi valore complessivo, tenendo conto che strappi nuovi, con staffa, microfono CTE, modulazione buona, perché l'abbiamo provata, mi sembra che ha dagli 8 ai 13 watt di modulazione, 120 canali, più scatola, grazie a un amico che non faccio i nomi, ma diciamo che sa lui chi è, scatola originale della Midland Alan 48, compreso di tutto 2,50. Cavagava. Buono, in tasca. Ma è venuto già, Tino? No, beh, l'ho appena messo. Ero sul PC e sto sperando di carichi le foto. E anche le spiegazioni. E non so, e quello non l'ho messo, Mettilo. Così c'è di prezzo che dice, grazie per aver acquistato il nostro apparecchio. Non stava la portata dei bambini. Mannaggia, adesso, a parte gli scherzi non l'ho messo, vabbè. Quello che lo regalo. In omaggio, manuale operativo, Gesù Maria, 2,70 almeno. Ma anche 2,50 già mi va bene, giusto per... perché ho anche il microfono originale, però se non mi sbaglio è con un Intech, non mi ricordo, una scatoletta, una cosa che a me sinceramente come radio non piace, è buono. Aspetta, prima. Non piace, come vuoi non piace, è piccolina però va bene. Ho messo la carta sulla ricole buone e tocca a voi, prima era l'asina. No, ma esce bene, perché l'ho provato oggi con il CTE. Sembra un preampli. Ragazzi, mi sa che io ho visto l'orario e se non corro mi scappa Cenerento, capisci a me? Tocca fare quel ritmo. Fabio. Gamba. Anche io vi lascio che mi sta chiamando Morfeo da mezz'ora, gli sto dicendo un attimo che sto parlando e mi sta chiamando. Devo andare, ciao a tutti e ci sentiamo. Ciao Giacomino, ciao anche Fabio, io sono ben entrato quindi tutti attenti, vabbè, ce lo sapevo che sarei copiato a guardare il ciao da. Babbo, ciao Aldo, ciao Giacomo, ciao l'altro chi era, non mi ricordo che Aldo Giacomo, E c'è anche Pomponio, Aldo Giacomo e Pomponio, Aldo Giovanni e Giacomo. Così non ci manca niente. Oh, già che sei appena entrata, ma io devo andare un po' tardino per cambiare QTH stasera. E niente, ci sentiamo sicuramente anche domani. Grazie per il QSO, anche se sei rimasto poco, hai fatto molto di più di porco e hai parlato un poco, questa è una pagina, no, non è vero. E ciao Antonello, ci sentiamo domani, magari ci mettiamo d'accordo per vedere questo pezzo. Buonanotte anche a te Riccardino. A domani, esecutivo. Cercate un punto per ancorare. Ce la faccia, non farò l'allaccio. Perché io mi sto già mangiando la cena, adesso che te l'hai accorta, ti imparani adesso e Fabio. Attenzione ai lacci. Aspetta che mi tocco le balle, per sicurezza. Ciao Fabio, ci sentiamo, ciao Riccardino. Cazzo, già mi volete bene tutti e due, Susan, che tu cosa ha fatto? Tu parli perché ti sei rimasto giù, andate ad aperta luce. Però se sei in quartetto, ti aggancio io con la corda. Ho capito che domani la prima cosa che faccio è mettere via la via di materassi, così se cadiamo sul morbido. Domani vengo a fotografare, ditemi a che ora la piazzate che vengo a farvi le riprese. Aspettate, dai che salutiamo Riccardino. Ciao Riccardino, buonanotte. Ciao Riccardino. Ciao ragazzi, buonanotte, esecutivo davvero domani, ciao. Scherzo naturalmente, Alicio riprende. Aspetta, ma perché fa? Ma se non va a fargli l'allaccio? A chi? A me? Non credo proprio. Per carità. Tanto sei da fatto. Ciao Fabio. E allora a te. Antonella, spostati un pochino dal microfono, perché stai fischiando troppo con il fiato, no? Tipo, capito. Chi era che... col fiato? Sto parlando a voce bassa, il bello è quello. Ma il bello è quello, sì, se ti sposti dal microfono magari eviti di fare questo fascino. Capito. Va bene questo? Perché se è troppo attaccato vai troppo in soffione. Parlo distante dal microfono, va bene, almeno non ci sono i soffioni. C'è un buffone. Andare, no, va bene, con l'amplificazione è buona anche, solo che, ti ripeto, se è proprio attaccato la bocca vai a soffiare troppo e fa un abbrutto. Sì, ho capito, vabbè, ma chi non lo sa, la 87 è quello che... Anzi, con l'altro, cioè, il microfono che montava questo balacchino qua c'era Giovanna, con il 4000, che ce l'ha giù. Ma quell'antenna, quella tucca master l'è piazzata? Nel terrazzino l'ho piazzata, hai capito, perché come hai visto la canona a pesca, il capocondomine immediatamente lì mi ha telefonato, ma cos'è piazzato, e quella là, ho detto, ho messo una canona a pesca, ho detto, per parlare ai bambini, perché sono troppo attaccati al computer, io al telefonino. E siccome Mirko stava parlando sempre con tutti i giorni con Riccardino, quindi andava anche bene. Poi vabbè, per non bisticciare ho preso e l'ho messo nel terrazzino lungo il perimetro del terrazzino, visto dove c'è la cosa bianca, già mi hai capito. In pratica l'ho agganciato io, ho visto già esce bene lo stesso, quindi. Ma noi siamo verticali, sì. Adesso me la devo prendere anche io, già ordinata in fabbricazione, anzi mi sa che era già finita anche. Solo che devo prendere le canone a pesca, non solo per prenderle. Sì, però con la 7 metri io di canone a pesca. Basta che avanza, penso. Sì, ma da detta non vai, questa non ha cazzata. Da detta No, però già mi ha detto che praticamente ce ne vogliono due, uno da 8 metri e l'altro da 6 metri, a quanto ho capito io. Quindi va una dentro l'altra in maniera tale che se c'è troppo vento va un po' rinforzata e poi il vuole messo il proiettile espanso. Vabbè, comunque in ogni caso c'è gli altri tipi di carne da pesca, la detta però c'è carne con le fisseri, con le per pescare con la fissa, capito? Quelle da 7 metri, quelle da 8 metri. Va bene, no. No, vabbè, adesso vediamo, tanto prima di piazzare del tutto voglio fare una miglioria, diciamo, perché Antonello già la conosce, dove ce la carica Antonello? Se tu ci metti la canna da pesca è troppo larga perché è da 63, io voglio mettere una riduzione da 63 a, che ne so, a 40, vediamo com'è la canna da pesca, capito? Anzi, due riduzioni, una sotto e una sopra. Sì, no, se non puoi mettere sai che cosa? Quelli che usano per gli alberi delle barche a vela, ce ne presenti quei tubi che usano. Quelli lì non li sfasci mai, quelli sono fatti apposta per il vento. No, non lo so, non lo conosco, però siccome dove c'è la carica ho già, è un tubo da 63, quindi se tu metti, che ne so, una canna da pesca anche da 40, da 63 a 40 c'è gioco, quindi cosa succede? Io voglio mettere nella carica due riduzioni, una sotto e una sopra, in maniera tale che la canna da pesca entra e va a allacciarsi alla carica, e mi pare che non abbia gioco, poi magari, che non so, con un po' di mastice oppure con un po' di anche di tangite si mette al bordo e si attacca, mi pare che non entra neanche l'acqua, capito? Vuoi tirare espanso? Sì, però se la carica è troppo larga, anche se metti il potente espanso, ha troppo gioco, mentre invece se metti una riduzione è quasi perfetta. Ah beh certo, quello sì. Ci sono, io non lo so, forse ce l'ho io un tubo da 40, non lo so, devo controllare. E adesso vediamo, perché tempo fa l'avevamo già fatto un'antenna con Luca, però è andata male perché magari sai, un po' di distrazione nostra oppure la bramosia di entrarla nella canna da pesca tra una cosa e l'altra ha fatto qualche corto, si è staccata qualche cosa e l'antenna sinceramente non stava dando il meglio di sé, anzi ti dico di più che è come che era sorda, non stava andando, c'era un filo staccato, adesso me l'ha rifatta, magari isolata migliore, vediamo un po' cosa ne c'è fuori, dai. No, la voglio provare, sai, voglio fare, metterla alla stessa altezza dell'antenna della mantova e verificare un pochino le cose, i cambiamenti, la rumorosità, la ricezione, tutte queste cose qua, che bene o male, insomma, uno che la radio fa queste prove qua, quanto sopporta anche attaccandogli qualche amplificatore, qualcosa così, dai. 600 watt di supporto, si è fatta bene, poi Luca stava mettendo quel capo più grosso adesso, stava mettendo quello più fino, stava mettendo quello più grosso, perlomeno, non so se te l'ha fatta con un capo grosso. A me mi ha chiesto un capo così, addirittura perché mi conosce, ma no, tu cazzo me la sciugli, aspetta, dammi un capo così, cazzo, così puoi attaccare anche 2 kW. Allora, ho detto vabbè, proviamo, va. No, perché adesso Fabrizio dobbiamo guardare delle valvole non ricordo come cazzo si chiama. Vabbè, ce l'avevo qua sino a stamattina, poi l'ho ritornato, perché dobbiamo aprire, vediamo un po' che valvole ci vogliono. Quello da 1 kW. No, ma allora, non è per, sinceramente a me piacciono fare delle prove, verificare un pochino cosa ne esce fuori, perché effettivamente Gianni, io avevo anche il B507 che effettivamente dava meno di quanto quello che sto usando ora, quindi sinceramente non mi interessava tenerlo, però provare un kilowatt e verificare se ci sono dei cambiamenti e come sono questi cambiamenti mi fa piacere. Poi giustamente consumo i due e dici cazzo, ma ho consumato corrente, perché? Cazzo, lo sai il perché, no? Sì, certo. E vabbè. Ma io vabbè non ne ho di queste cose qua. Non mi interessa perdere i lussi. Lessi le tinti. Comunque sia, vabbè, in campagna il lineare ci vuole, in città magari no, ma in campagna sono d'accordo con Tino, la verità si ricca, la riuscita ci vuole per forza, magari non 1.500, ma meno 300, quando beh, tanto per poter dare una bella soddisfazione, cioè di arrivare bene almeno in città e fuori, non è che devi uscire con uno monogatto che esce mezzo watt, no? E allora e sarebbe inutile piazzare la vantova o quell'antenna. Io guarda, per dove Tino, io sono andato a casa, so dove esce un bel bene, capito? Perché non è sotto, bisogna scendere giù, quindi immaginati sotto la strada esce benissimo per come è situato. Io sono in un buco lì praticamente, però mi riferisco bene, nel senso che do qualche spinta in più per superare la vallata. Paga, vabbè, certo. No, ma in effetti è così. Dopo arrivi da tutte le parti, non è che arrivi a Sorsa, arrivi a Pontontone, arrivi da tutte le parti. Quindi non è problema. Diciamo che mi dà fastidio la parte di Alghero, perché ho la collina che mi impedisce, però già sono arrivato lo stesso, al contrario di quando ero alla Peroce, che caspita, mi ricordo con Domenico arrivavo 9.10, 9.15, quindi e qua è un pochino più, insomma, più restia la cosa. A me Domenico Tartaletta mi ha sentito a Urbia, sentiva che non ne lanciava agli altri e tanti non li sentiva solo a me. Ma tu in confronto a me sei molto alto, Gianni. Sì, tu sei sotto, ma bisogna scendere la discesa per scendere a casa tua, lo so che è così. Cosa vuoi fare? È un'altra scelta. Arrivare a Rufino. No, vabbè, non è la mia scelta, mi sono dovuto adattare. Mi sono dovuto adattare perché non ho messo la scelta, nel senso che i miei mi hanno detto dovevo andare in campagna o alla Peroce. E io ho detto no, cazzo. La Peroce dovrebbe alle piene, meglio in campagna perché più serenità, più parcheggio, più aria pulita, più tutto, tra virgolette, quindi con la possibilità di fare quel cacchio che mi pare mi piace e quant'altro, capito? Quindi ho scelto qua già da 30 anni. Quindi è stata una tua scelta. Sì. In compenso ti avevo detto di fare le rustite. Insomma, la mi arrangio. Sei sempre affogatito, cosa ti arrangi? Sei sempre arrossetti. Già, se c'è freddo bisogna scaldarti. Ma va del figo. Non decidi, cazzo. Ma perché di notte magari c'è freddo, c'è umidità. Avanti, Alessio. Metti fuoco alla campagna e ti scaldi subito, solo alla mobilia. Guarda, io ti dico la verità, Gianni e Alessio, molte volte sì, la campagna è bella perché è bella, però c'è da dire anche un'altra cosa, che se la tieni conto è bella, se non la lavori è un casotto, perché poi ti si accumula un po' il tutto, sai, l'erba che cresce, la manovolanza ci vuole, non è che non ci vuole, ho fatto il prato, quindi l'erba vuole tagliata, la piscina vuole pulita, la strada lo stesso puoi liberare per l'erbaccio, tante cose ci sono, ma è che mi impegna, non devo dire che non impegna, al contrario della città, che tu arrivi, ti parcheggi, passi già dentro casa, qui invece ci vuole un po' di manovranza in tutto e per tutto. E in campagna c'è sempre da fare, qui è, dove vai vai c'è da fare. E allora, vabbè, però diciamo che oggi come oggi mio padre mi dà una grossa mano, quello devo dire, perché nonostante tutto che è dal 43 lui, 77 anni, poi 78 diciamo, sta ancora molto zappando, tagliando erba, dando medicinali e quant'altro. E un domani già queste cose dovrò farle io, non è che... Beh, saranno tutti sopra le spalle tue e ci saranno anche i figli che impareranno quando crescono. Perché sai, quando siete, anche quando sono serviti e riveriti, è un po' difficile dire vai a fare questo, vai a fare quell'altro. Ma quando crescono li metti sotto, li dici aiuta papà, vieni, e poi non fa come aiuta papà a fare questo, dai da bravo. E lo dici con le buone maniere, vedrai che anche loro si appassionano. Sempre che gli piace la campagna, perché non è a tutti che piace, a me per dire la campagna mi piace per fare una seminata e basta. Non mi piace abitare in campagna. Aspetta che è arrivata Alicia, cosa avete detto che non vi ho sentito? No, Dino sta dicendo che adesso l'aiuta il padre, poi fin là dice si dovrà fare tutto da solo, le docce, hai anche i figli, quando crescono ti danno una mano. In campagna non è così facile, io ci ho abitato in campagna, la verità, vabbè mi sono divertito perché si stava bene, il viene per ottobre, se la verità c'è caldo, quindi in pratica un'insalatura e c'è un bel sole, però vabbè, mio padre andava a fare la spesa, allora c'era la mutola, pigliava il carrello della spesa e andava lì a metà piedi, immaginate tu, adesso se fai col carrello a piedi ti ammazzano come minimo, capito? E quindi poi vabbè, quella specie di cosa che non c'era al centro, quindi adesso ho modificato tutto, adesso se in pratica vai a fare le spese al supermercato devi scendere giù fino al rifornitore, girare e poi arrivare in campagna nostra. Vabbè, ormai adesso il ponte non c'è più, quindi separato. Se no già mi sarebbe piaciuto scendere a farmi come una volta le seminate tutti i giorni. Così già era bello la verità, mi divertivo. C'era anche il baracchino piazzato lì addirittura, avevo messo la Super Regibus, l'antenna, il baracchino, l'FT7B addirittura usavo. Poi dopo di quello avevo messo il Kenwood e uscivo bene. È una bella zona quella per poter modulare. Poi mi sono rotto le palle e ce la faccio detto, a stare tutti i giorni buttato, tagliare erba, a spendere soldi per il coso, ma la fa il culo, detto. Beh, se anche a Sassari sta bene. E infatti così ho fatto. E adesso l'è venuta lì. Sta portante, c'è. Beh, non lo possiamo. Sei svegliato questo. Ma perché non la passiamo? Tu no, arrivo uguale. Arrivo uguale? Sì, lui ha appena tirato di te, ma di poco però. Aspetta che ho altre due marce. Oh, adesso? Proviamo l'uscita. Prova l'uscita, a va. Adesso va bene, adesso sei perfetto. Allora ha perso. Adesso pulisci 5RM con la portata. E io sto pompando lo stesso, 400 sono. No, io no, io circa 200, dai. E più piccoli non sono io. Ma si mangia la radio? No. No, aspetta un attimino. No. 200 non di più, non ce l'ho fatta, pensavo che andava di più. questo che cos'è? Questo è modello 500 della Falco. Ma sta saturando per caso? Ma un po' di compressione, ma appena appena, niente di che. Antonè, quanto sta arrivando lì da te? Prova. Guarda un attimino. Aspetta un attimino, faccio due prove, aspetta. Quanto? 25 tondo tondo, anche Gianni lo stesso. Addirittura quanto è Gianni? Io sono piccolino però, io c'è. Vabbè, è l'altezza però lo so, adesso sto sparando un po' più al centro, cos'è? È stato la radiochina? No, guarda un attimino Antonè, se cambia aspetta, Antonè tu sei più lontano guarda un po', se è cambiato. E adesso sta cominciando a mangiarsi un po' la radio. Allora, niente, devo pilotare con meno, ma non posso. È bello il passaggio che sta facendo. Radio. Sistema tutto, guarda che non sta facendo di radio, controlla il mic che quello che c'hai in quell'apparecchio. Ah, eccolo! Attento Antonello, se mi ascolti cambio! Me lo sono immaginato, avevi tu capito che stavi provando e mi stavi accordando. Ok, avanti, ripiglia. Tino era Capridù che stava provando a accordare. Ma sono accorto la vera, perché solo lui fa passaggi così lunghi. Ciao, ciao a tutti, buonasera. No, perché quando sono andato in una radio... Che cosa? Lasciala fuori. Una cosa, stai facendo, hai capito anche noi come sono le cose, e la parola all'altro, quale, quindi... Ah, lo passo già. Antonello! Antonello non lo so perché dice l'orario. Quello è. No, non va bene come. Confermiamo il segnale. Sì, 25, sì. La radio è forte, capito? Già esci bene, non ti preoccupare perché sei perfetto. Anda bene. Ti piglia il canattino, fai girare. Ah, è stata la radio Magnulato. Ciao Capito, ciao. Salutone. Antonè, invece io qua, quando arrivo a te. Uguale a lui, ma lui il radio è una cosa allucinante, mica. Capidue non c'aveva una voce, c'aveva un amplificatore d'antenna, c'ha posto del coso. Vuoi lavorare maricoso di Giuseppe Intrepido, qualsiasi microfono li mettevi, c'aveva una radio allucinante, c'aveva. A Torino me lo dire che me lo ricordo benissimo a Giuseppe, che è un'idea. Quindi erano quindi già. Ma io era collegato da Torino, cioè quando cambia una radio all'altra, che la rete è collegata, non è che sbaglia sempre, non era precedente di lui, era formatore tu. Diventa pesante anche con la fetta sul rosmeto a metterlo a punto e non è che tu cambia che già le stesse cose capito, come una persona e come la forma che devi trovare non è la stessa persona, tu sei la stessa cosa. Ciao Tino, buonasera, ti metto il cambio, vai. Capito, dammi un controllo anche tu, che sto andando con circa 2.00, vai. Per vedere se arriva anche lì dalle tue parti. Sì, forse è 9.05 qui, 9.05 contrastante, come va bene, come è regolato la valvola? Sì, anche tu sei, non so poco, così da Santiago Nova, un pochino, ma lascia perdere il mio segnale che magari è un po' restio, questa radio è un po' tirchia al confronto dell'altra che ne dà forse qualcosa in più. Va bene, va bene. Antonè, così invece com'è? Prova un po'. Guarda un pochino se è compresso oppure no. Guarda quel passaggio, adesso lo abbasso un pochino però, eh. Ecco, così era come solitamente la uso io. Vabbè. No, adesso si dovrebbe bene, ho voglia. Poco fa era appena compresso, quindi vabbè, adesso è regolato e già va bene. Gianni, c'è lo stesso di segnale tuo, preciso, Gianni è appena male di poco, mi più forte di voi due, come segnale, 9.26, 9.27, una cosa del genere. Però c'ha l'audio, hai capito, che vi passa tutti e due, vi sento sotto, vi sento, quando parlate, se sente il bip e cosa, però come audio è micidiale, capito, io bisogna che... lo assumiamo, sai quando? Quando vengono le sardine e mettiamo il microfono in Piazza d'Italia a Capri 2, diciamo andate a cagare che è meglio, gli facciamo fare un po' di politica, capito? Almeno ci rimandiamo queste sardine che sono tutte sparite, prima hanno fatto un sacco di casino, poi sono sparite, cazzo. No, riprendo io, ciao Capri 2, ben sentito, eh. E io lì come ti sto arrivando a muro, sbarrato, sto parlando a voce bassa, eh. Non so, ma sentavo una già, non so cos'è, ti abbassano la voce che corre in fondo della radio. Ti abbasso, ma con mia moglie fa la voce abbassarla io. Ma che una vocina già, una vocina, va benissimo, però siccome abbiamo cambiato radio, poi passare a cambiare, cioè l'avevo una parata che varia quando il corpo è attaccato in una, poi quando è attaccato in un'altra, c'è qualcosa che cambia, non c'è tutto preciso, quindi sono tre ore provando qui, là, qua, e non so che adesso nessuno lo porta a casa, va benissimo già, solo che anche tu adesso ho pianto il giudico, mi ha detto che passa il bambino dell'altro, perché? Perché c'è l'interno di Claudio, capito? E così, anche ero mi ha svegliato a Claudio, stavo guardando la pressione da casa con il mio calaio sentito sul campo, quando gli stavo mettendo a posto, capito, un po' la battuta, che ho entrato tutto con qualche tormento. Perché niente, è un po' stanco di stato, ma so, sono meglio al 100%, riprendi il tino. Capa, no, vabbè, sto provando un piccolo amplificatore, ho detto va, vediamo se aumenta le parti a muro. E vedo che già va bene, dai, in confronto sta andando il suo. Adesso già vai bene, Capri 2. Sei perfetto. È una bomba di gas. Non diciamo tanto, ma anche questa è l'altra di la radio. Mi che si sciuga. Non mi dico che sia ma come lo sentite tutto. Sembra unico, cazzo. Sì, non credo che non va perché è capito di te. Non va sempre di più di la radio. Ma non ride Bariuni. Perché qua non è quello del 84. Stelio. E quindi... Olio. 574. Con le mie cucine, però l'altra cosa come si chiama? Perché mi dà anche problemi anche a me, non è il microfono, c'è una cosa che siccome spara 10 watt e tu mi corrono che la sta pilotando che ha problemi su quello, io mi conosco benissimo il tuo produttore. Niente di più, va bene, solo che sia stato, però la stazione già come l'ha già regolata, quindi se io l'attacco, se ne ha fatto un'altra stazione ci se ne porta ancora, quindi hai tre ore, qui, la mai rompe, c'è la cordatore, no, è cambiato di un'altra in comunque due. Gianni, riprendi, ti devo fare la tua frizzantina, vai. Sono tranquillo perché ho riposato, mi sono fatto una doccia dopo pranzo, mi sono coricato, mi sono svegliato che era rotto meno un quarto. Una dormita, una cosa strana, proprio dormito come un sasso. Ma io stasera niente, più giorno pensavo, come è che sono calati, c'è cioè, da passare anche questo da recorrente, era chiuso, sarebbe dovuto roba infernale, roba con mano, mi sono messo da facendo e mi batto della mezzogiornale e arrivo sera non mi chiamano tutti tanto più vuoto tanto che sono ancora un po' e poi ho capito non batto di quella banca non fa perfetto delle casse piene in ferro però sono così non si è vuoto non c'è nessuno fuori ho capito quindi mi sono alcuni di fermata ci sono incollato perché ho preso di fare plastica e roba e poi sono andato con mia moglie a prendermi l'acqua le provina ho capito così e niente ho saltato la funicella ho passato abbastanza male a fare ogni giorno nel divano con la ragionetta non la devo fare ho capito e poi però mi alza strano già che adesso mi piace a casa con loro è proprio è troppo se lo faccio già questo giorno che mi rovina il sistema oraio che sono cambio completamente le cose mi abitui non ho già fatto niente sono bruciata con quella strada e il profondo male quindi e ce l'ho fatta perché lo sa siete dormiglioni siete anch'io dopo mangiato che sono coricato ho fatto una pennichella poi lascia perdere e vuol dire che ci voleva forse mi ha rilassato anche la doccia che mi ho fatto e mi ha concentrato il sole c'è la radio accesa il baracchino acceso stavo ascoltando il colpo ho detto beh io mi sento un po' di sonno vi rimando con lei che si ascolta mi sono più dormito mi sono svegliato al numero 4 stavano ancora parlando sì ma effettivamente ho già allora io molte volte ma lo noto soprattutto la domenica perché durante la settimana magari non hai la possibilità di farlo però domenica che mangi un po' di più bevi qualcosina in più ti viene una sonnolenza ma è di quella sonnolenza che io perlomeno parlo per me se mi corico subito prendo sonno e magari dormo che ne so quell'ora anche due ore tranquillamente forse anche tre non è che però mi rilasso mi tranquillo apro mi alzo e poi magari prendo sonno anche subito se mi ricordo che ne so mezzanotte però sono quelle tre ore che proprio ti fanno bene capito e a volte ci vogliono se non richiede il fisico perché sei stanco io stamattina mi sono alzato presto mi sono alzato verso le 7 così ho portato giù il cane poi mi ho fatto tutto bucato tutto quello che dovevo fare adesso domani mi faccio tutta la casa ripulisco tutta la casa sì allora piano piano no io domani se riesco mi pulisco ho una piscina piccolina e insomma piccolina ora è fatta per la gioia dei miei figli, quindi dovrò lavorare un pochino, però mi trascorro l'ora mattiniera al sole se non piove e vedo un po' di pulire la piscina così almeno riesco a riempirla e piano piano mettere le cose che ci devono mettere. E poi vediamo. Riprendi Antonello. Sì, yeah. Va bene, io vi lascio. È già tardi, voglio attirare alle 8, devo fare la colazione a Simona, perché adesso quell'ora devo dargli poi le pastiglie, e poi mi tocca a mezzogiorno, poi mi tocca la sera, mamma mia che... uno stress qua sta diventando la carità guarda vabbè ci sentiamo domani là, domani mattina se ci siete già appena mi sveglio già entro e faccio la bella chiacchierata una cosa all'altra intanto devo cucinare ma prima lavare in terra dopo che lavo in terra fare i piatti dopo che faccio i piatti cucino dopo il cucino se tutto va bene mi addormento 5 minuti se no sembra fatto apposta scrivere al telefono tipo il sindaco di Sorso cazzo intanto qualcuno c'ha qualche problema e devo rispondere capito? Non è uno stress, Antonio, capisco, perché anche io faccio tutto così, mi faccio tutto a casa, cucino, stiro, lavo, faccio tutto. Io anche accompagnare Simona solo un altro. La mattina quando va in bagno, perché c'è poco che cade in terra, capito? E quindi devo perseguitare, anzi la perseguitiamo in due, io uguale, perché il cane li va in automatico appresso. Poi il cane sale sopra al letto, si mette dritto, prende a lei per il braccio e gli tira la maglietta in modo che si possa sdraiare, perché c'ha paura anche lui, capito, se è cane. Non sono gentile. Faccio un cane, a volte mi fa anche male a me, perché si mette in piedi con queste unghie, mi graffia, mi fa tutte le braccia segnate, cioè sembra che mi sono fatto le pere, figurati, dalle unghie sue. Fino che la porta a fargli le unghie con la mola, se non si mangia il veterinario. Io gliele taglio io, cioè le altre se le consuma, sono quello laterale, e la taglio io con la cesura, diciamo, taglia unghie per cane. No, se io tocco quello con quella roba lì, mo si che già messo un cane, lascia perdere. Neanche lo porto dal veterinario, metto la museruola e gli faccio tagliare direttamente la cosa. Vabbè, sta uscendo tutti i giorni adesso, quindi un po' nell'asfalto, diciamo, le consuma, come si chiama, le unghie, capito? Però non li faccio toccare, quando lo posso nel giardinetto, faccio solamente fare la cacca, la pipì e basta, perché lui c'ha la varia di rendere cade l'erba, capito? Siccome l'America va tutti i giorni qua, non vorrei che mi ammazzasse il cane, capito? Il comune. E quindi lo tiro, hai capito, faccio fare solamente bisogno e buco, senza fargli leccare la pipì degli altri, cose del genere. Io sai che i cani fanno così, quando sentono loro mettono in muso, hai capito? E siccome stanno medicando tutti i giorni, stanno medicando adesso con la questione di questo coronavirus, e quindi è un casino, non voglio che muoia il cane. Queste cose qua, allora piglio e lo trascino. E se lo portano da un'altra parte, cosa lo porti lì a farlo avvelenare? Se c'è la medicina che lo sai, non ce lo portare nemmeno lì, lo porti da un'altra parte, lo fai anche nel marciapiede, tu vado a fare la cacca, la pulisci. E già c'è il coso, c'è bisogno di pulirla, già la fa il giardinetto vicino ai frutti della Mondezza, la fa lì e poi fare le sue 3-4 pisciate che deve fare, poi va arrivata a posto al bar. Adesso ci sono almeno una ventina di cani, compresi i padroni, esci tu, cazzo, te ne trovi 5-6 che si stava vicino, a un certo punto, e non sai come sono fatti i cani, no? Ognuno c'ha il coso suo e quindi cominciano e io infatti faccio così, scendo sempre all'ora che non ci sono gli altri, io so già gli orari che scendono gli altri, la sera per dire dalle 9 alle 9 e mezza c'è il coprifuoco, sono tutti curigati, io aspetto, o scendo prima o scendo dopo, basta, avanti capirò. Thank you. mi consolo lucido qua. Grazie, mi piango ora che ora, però sono un amore contagioso, perché in quella fase non ho più prima cosa pensare a donna tua, perché uno in paese ce l'ha. E la donna è andata la mica trovarla, il caro la giammata, la salute con cui ti hanno messo. E quindi eravamo già pronti, io non voglio che accada questo, questo danno, perché se non ci siamo, non